del gruppo fascista con l'ufficio affari riservati dalla metà degli anni 60. Infatti, chi aprì le porte al ministero ai golpisti fu il dottor Salvatore Drago, amico di Umberto D'Amato, anche lui iscritto alla P2, medico fiscale del ministero. Sebbene Delle Chiaie dichiarò di trovarsi a Barcellona in quei giorni, una relazione di Guido Paglia, presidente di Avanguardia Nazionale, disse in una relazione fornita al capitano Antonio Labruna del SID, che però non fu mai trasmessa all'autorità giudiziaria, che Delle Chiaie era attivamente presente durante il tentato golpe e riferisce anche dettagliatamente dell'esistenza all'interno di Avanguardia Nazionale di due livelli, un livello ufficiale destinato allo svolgimento delle attività pubbliche legali e una struttura secondaria che costituiva un vero e proprio apparato clandestino della quale facevano parte i militanti dotati di capacità organizzative più adatte al lavoro clandestino, scelti fra coloro che non erano noti alla polizia e ai carabinieri, per la loro attività politica e pubblica e fra coloro che avevano finto di abbandonare l'attività politica. Le informazioni contenute nella relazione Paglia furono poi ampiamente confermate da altre testimonianze. Antonio Labruna poi nel novembre 1972 si recherà a Barcellona dove Delle Chiaie era fuggito per chiedergli se fosse in grado di accogliere Franco Freda e Giovanni Ventura che lui avrebbe fatto evadere dal carcere. Un importante esponente dell'Ndrangheta, tale Tommaso Cosentino, raccontò a Vinci Guerra dei rapporti avuti con Stefano Delle Chiaie per il golpe borghese. Disse che i rapporti tra AN e l'Ndrangheta erano proprio con boss ai vertici e con i Nirta di San Luca. Giuseppe Nirta era un grande estimatore di Delle Chiaie che secondo lui sarebbe stato in grado di ristabilire l'ordine nel paese. Si rivelò fondamentale la mossa del furto del mitra dal Viminale, grazie alla quale l'ambiente di Avanguardia Nazionale non subì alcun danno sia dalla polizia che dalla magistratura. D'Amato evidentemente ritenne più prudente non colpire chi avrebbe potuto svelare il retroscena del tentato colpo di Stato. Il tentativo di golpe sarà reso pubblico il 17 marzo 1971 sulle pagine di Paese Sera che titolò «Piano eversivo contro la Repubblica, scoperto piano di estrema destra». Ed ora ascoltiamo «Se non li conoscete» di Fausto Amodei. Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso.

La prima vittima della riunificazione sarà il giudice Vittorio Occorzio. Il 10 luglio 1976 il magistrato venne ucciso a Roma da raffiche di mitra mentre si trovava a bordo della sua auto. L'autore materiale fu Concutelli, che utilizzò una mitraglietta Ingram proveniente dal covo di Avanguardia Nazionale di Madrid. Il magistrato fu colpito perché aveva indagato sugli incroci fra malavita organizzata e versione nera, loggia P2, apparati deviati del SIFAR sul piano solo e sul fallito golpe borghese, oltre che ad aver preso parte, in qualità di pubblico ministero, al processo per la strage di Piazza Fontana e a quello del 1973 contro i dirigenti di Ordine Nuovo. Il 6 ottobre del 1975 tentarono di uccidere a Roma il senatore democristiano cileno Bernardo Leyton, che si era opposto al colpo di Stato in Cile di Pinochet nel 1973, e sua moglie. Leyton fu ferito gravemente, come sua moglie. L'attentato era stato organizzato dalla DINA, il servizio segreto cileno, e dall'agente segreto statunitense Michael Townley. L'esecutore materiale sarebbe stato Pierluigi Concutelli e delle chiavi aveva provveduto all'appoggio logistico. Sottoposto a processo per questo, delle chiavi fu assolto nel 1987. Pierluigi Concutelli dirà, molti anni dopo, al giudice Salvini, il 17 maggio 2002, che l'assassinio era stato organizzato da Pinochet. Lo seppi da Stefano delle chiavi, che disse che Pinochet si stava togliendo i sassolini dalle scarpe. Tra la fine del 1975 e l'inizio del 1976, Concutelli e alcuni altri italiani di Avanguardia Nazionale inviati da Delle Chiaie avevano raggiunto l'Angola per appoggiare il movimento Filo Occidentale Unita nella sua lotta contro il MPLA e le truppe cubane che lo sostenevano. Stefano Delle Chiaie, Augusto Cauchi, Piero Carmassi, Mario Ricci, Giuseppe Calzona e Carlo Cicuttini il 9 maggio 1976 parteciparono in Spagna, insieme con altri neofascisti, all'assassinio a colpi di pistola di due giovani democratici a Monte Hurra, nel corso di una manifestazione organizzata dal partito carlista di Carlos Hugo. I seguaci del movimento carlista avevano combattuto durante la guerra civile spagnola a fianco di Franco. Nessuno in Spagna ne rispose, anche se un servizio fotografico su El País immortalò gli aggressori in azione, poi pubblicate su alcuni settimanali italiani. Né Delle Chiaie né alcun altro italiano furono mai perseguiti in Spagna per questa strage e qualche mese dopo tutto il gruppo aveva iniziato a trasferirsi in Cile per mettersi al servizio del regime del generale Pinochet. L'8 giugno 1976 il Ministero dell'Interno sciolse Avanguardia Nazionale per ricostituzione del Partito Fascista. Avanguardia Nazionale però continuò ad operare in clandestinità. Nel febbraio del 1977 a Madrid venne scoperta una fabbrica di armi clandestina a Calle Pelayo. Risulterà essere un luogo frequentato abitualmente da Delle Chiaie. Nell'operazione verrà arrestato Eliodoro Pomar. Il mitra usato da Concutelli per uccidere il giudice Occorzio verrà accertato proviene da qui. Nara Lazzarini, la segretaria e amante di Licio Gelli, afferma nelle sue testimonianze che il gran maestro della P2 riceveva continuamente telefonate da Delle Chiaie sul suo numero riservato quando era in Spagna e che lo incontrò durante le sue frequenti visite in Argentina per, come disse, concordare operazioni oscure e coperte. Nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna che ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini per la strage di Bologna possiamo leggere: Stefano Delle Chiaie si muove invece con grande disinvoltura nell'Argentina dominata dall'occhiuto regime militare. Da latitante qual è, frequenta liberamente vari ambienti e compare a cena a fianco del console italiano, reduce dall'esperienza cilena, dopo un primo momento di difficoltà, comincia a prosperare, raggiungendo l'apice della sua fortuna nel periodo in cui le forze governative argentine, il che, tenuto conto di quella realtà, equivale a dire gli apparati militari, appoggiano assieme a quelle cilene il colpo di stato militare boliviano, proprio nel periodo prodromico del golpe, intensifica la frequentazione della Bolivia e dopo la realizzazione del golpe ottiene addirittura una collocazione stabile ed ufficiale presso lo Stato Maggiore dell'Esercito Boliviano, quale assessore del settimo dipartimento, carica di tale importanza che gli dava l'opportunità di incontri diretti con il capo dello Stato. Il gruppo che creò delle chiaie in Bolivia fu soprannominato i fidanzati della morte. Delle chiaie operava in quel paese insieme all'ex comandante della Gestapo Klaus Barbie. Inoltre Delle chiaie operò nel 1974 anche in Costa Rica contro la guerriglia marxista guatemalteca che in quel paese aveva le proprie basi. Infine va in Venezuela, dove collabora con le forze reazionarie di quel paese. Delle chiaie garantì il rifugio e la latitanza in Sud America dei componenti di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale che venivano colpiti da provvedimenti giudiziari, in cambio della disponibilità degli stessi a rendersi complici delle operazioni sporche dei servizi di sicurezza di tali paesi. È evidente che la posizione di Delle Chiaie all'interno dei servizi segreti argentini non sia estranea all'influenza di Gelli sul vertice della dittatura argentina. Sicuramente nel corso delle sue frequenti visite in Argentina e dei relativi contatti egli incontrò Delle Chiaie al riparo di occhi e orecchie indiscreti. Capo di Stato Maggiore della Marina in Argentina è l'ammiraglio Massera, iscritto alla P2, e addirittura visitatore dello stabilimento industriale del Gelli in Castiglion Fibocchi. Ascoltiamo ora Bella Ciao dei Modena City Ramblers. Mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Che tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Nella sentenza d'appello del processo Catanzaro Bis emessa nel 1981 sulla strage di Piazza Fontana, si invita ad approfondire la posizione di Delle Chiaie in quanto capo dell'organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale e figura carismatica nel mondo della destra radicale, già coinvolto nella prima istruttoria, ma solo in modo marginale, in relazione agli attentati romani del 12 dicembre, ed essendo indicato come uno dei registi dell'opera di infiltrazione di elementi di estrema destra nell'ambiente anarchico, oltre che come agente dell'ufficio affari riservati del Viminale. Sul banco degli imputati finiranno, oltre a Delle Chiaie, sospettato tra l'altro di avere coperto Mario Merlino fornendogli un falso alibi, Massimiliano Facchini, ex consigliere comunale del MIS a Padova e figura di spicco della cellula veneta di Ordine Nuovo. Entrambi verranno poi assolti per non aver commesso il fatto nel luglio 1991. A partire dal giugno 1982 Delle Chiaie sarà indagato anche in relazione alla strage della stazione di Bologna insieme a Massimiliano Facchini. Entrambi però verranno assolti nel 1989, sentenza poi confermata sia in appello che in Cassazione. Ma Francesco Mangiameli, detto Ciccio, di terza posizione, ammise di essere stato incaricato da Delle Chiaie di reperire grandi quantità di esplosivo per un attentato di enormi proporzioni da effettuarsi i primi di agosto. Queste dichiarazioni costeranno la vita a Mangiameli, che verrà ucciso dai fratelli Fioravanti dei NAR con la complicità di Giorgio Vale e Francesca Mambro. Al momento dell'arresto di Licio Gelli a Ginevra, il 13 settembre 1982, fu trovato nelle sue tasche un foglietto che verrà poi chiamato Documento Bologna. Ha un'intestazione Bologna 525.779 XS, contenente appunti scritti a mano e registrazioni di operazioni bancarie. Il numero 525.779 si riferisce a un conto corrente svizzero intestato a Licio Gelli presso la UBS di Ginevra. I versamenti ammontano a circa 5 milioni di dollari tra febbraio 1979 e luglio 1980. Erano presumibilmente destinati a finanziare l'attentato di Bologna e le successive attività di depistaggio. I fondi provenivano fra l'altro dalle casse del Banco Ambrosiano gestito da Roberto Calvi. Questi finanziamenti inoltre servirono a sostenere gruppi terroristici di estrema destra come NAR e Avanguardia Nazionale. Il 10 agosto 1982 Pierluigi Concutelli strangola nel carcere di Novara Carmine Palladino, ex braccio destro di Stefano Delle Chiaie. Palladino aveva dato segni di disponibilità a collaborare con i giudici. Nel 1982 fu spiccato nei confronti Delle Chiaie un mandato di cattura per concorso nella strage di Piazza Fontana. Nell'ottobre del 1982 in Bolivia finisce la dittatura militare. Uno degli uomini di Delle Chiaie, Pierluigi Pagliai, viene ferito da agenti dei servizi segreti italiani e riportato in aereo in Italia, morrà qualche giorno dopo senza riprendere conoscenza. Stefano Delle Chiaie invece fugge in Venezuela. Nel 1985 Delle Chiaie redasse un memoriale in cui sostenne che il cosiddetto documento Fisarmonica era una falsificazione creata dal SID nel giugno 1973, inviata ai giudici, a cui era stata fraudolentemente apposta la data del 17 dicembre 1969. Il cosiddetto documento Fisarmonica era un rapporto informativo manipolato. Il termine fisarmonica era usato perché veniva espanso o contratto per fornire diverse interpretazioni a seconda delle necessità dei depistaggi fatte dai servizi segreti. La versione inviata ai giudici del rapporto era stata fornita dal maresciallo Serpieri del SID. Era brevissima, di sole 5-6 righe. La sua funzione principale era depistare le indagini mirando a sostenere la pista anarchica e contemporaneamente collegare gli attentati anche ad ambienti neofascisti, tentando di unificare i due procedimenti giudiziari opposti, oltre a proteggere figure specifiche come Guido Giannettini, facendolo apparire lontano dagli stragisti e promuovendo la tesi dell'errore di calcolo nell'esecuzione degli attentati, suggerendo che le vittime fossero state involontarie. Ingarbugliare le indagini, collegando diverse figure come Pino Rauti e Stefano Delle Chiaie alla riunione padovana del 18 aprile 1969, dove si sarebbe delineata la cosiddetta strategia della doppia linea. Poi un documento interno del SID dell'11 dicembre 1970, collegato ai magistrati solo nel 1976, contraddiceva il documento Fisarmonica, rivelando che figure come Gerinzrack e Leroy non erano anarchici, ma appartenevano a un'organizzazione anticomunista e che queste informazioni doveva essere taciuta alla pubblica sicurezza e ai carabinieri. Questa contraddizione evidenzia come la Fisarmonica fosse un ombrello protettivo per i servizi. Il 27 marzo 1987 Delle Chiaie viene arrestato. Delle Chiaie giunse in Italia il 31 maggio 1987 e fu interrogato subito all'aeroporto, dove si era recato ad attenderlo il magistrato Infelisi. Non vi era alcuna necessità che fosse il magistrato romano a sentirlo per prima in esclusiva, il che destò sospetti nei magistrati bolognesi che avevano incriminato Delle Chiaie per la strage del 2 agosto e che avevano disposto il sequestro delle carte trovate nella sua abitazione in Venezuela. Sta di fatto che ai giudici bolognesi che avevano disposto il sequestro degli originali, le carte di Delle Chiaie furono consegnate in copia, segno che erano state passate in rassegna da altri e che ne avevano conservato gli originali. Il 2 agosto 1988 Vincenzo Vinciguerra inviò a Delle Chiaie una lettera dal carcere in cui esprimeva il suo dissenso per l'inserimento di Avanguardia Nazionale in una strategia complessiva che gli appariva sempre più manovrata dai servizi, definendo l'organizzazione fascista organica agli apparati dello Stato. Nel febbraio 1989 la Corte d'Appello di Catanzaro assolve definitivamente anche Stefano Delle Chiaie, che viene scarcerato per la strage di Piazza Fontana e per la strage di Bologna. A partire dal 1990 e sino all'inizio del 1994 vengono creati diversi movimenti leghisti nel sud, con varie denominazioni: pugliese, marchigiana, molisana, Sicilia Libera. Tutte queste leghe avevano un unico comune denominatore. Erano promosse da esponenti mafiosi, da massoni legati alla P2 e da esponenti della destra eversiva come Stefano Delle Chiaie. Ascoltiamoci ora Pietà l'è morta, interpretata da Ginevra Di Marco con i Modena City Ramblers. Lassù, sulle montagne, sventola bandiera nera. È morto un partigiano nel far la guerra. È morto un partigiano, morto nel far la guerra. La meglio gioventù che finisce sottoterra. Thank you. sottoterra trova un alpino caduto al freddo in Russia, morto con il cervino. Nemici, traditori, un altro compagno è morto, ma un altro partigiano oggi è risorto. Ma prima di morire tre volte ha pregato che Dio maledica il nemico alleato, che Dio stramaledica chi ci ha tradito, lasciandoci sul e poi è fuggito. La sua dura battaglia, tedeschi e fascisti, fuori d'Italia, tedeschi e fascisti, per sempre fuori d'Italia. Gridiamo a tutta forza, pietà è morta. Gridiamo a tutta forza, pietà è morta. Poi Delle Chiaie apre una piccola emittente televisiva alle cui trasmissioni parteciperanno esponenti di primo piano della destra sia nazionale che europea. Il 13 maggio 1994 Berlusconi presenta i sottosegretari del suo governo. Tra di essi figurano Guido Lo Porto, ex di Avanguardia Nazionale, che il 24 ottobre 1969, all'età di 32 anni, insieme a quattro camerati, tra cui Pierluigi Concutelli, viene fermato dai carabinieri attirati da una sparatoria e nel bagagliaio della macchina trovano una quantità considerevole di armi da guerra. Tra i sottosegretari c'è anche Antonio Parlato, anch'egli ex di Avanguardia Nazionale e prima di Ordine Nuovo, organizzatore all'inizio degli anni 70 dei campi Hobbit, campi per l'addestramento militare organizzati dai fascisti. Il 17 dicembre 1994 German Quiroga Gomez, ministro senza portafoglio del governo boliviano, si è dimesso perché è apparso in una foto pubblicata ed esibita in Parlamento che lo ritrae insieme a Stefano Delle Chiaie. Il ministro ha anche chiesto di essere sospeso dal partito e ha rinunciato all'immunità parlamentare. Il 29 maggio 1995 la Procura di Reggio Calabria ha concluso un'inchiesta relativa all'alleanza tra gruppi fascisti, 'Ndrangheta e massoneria durante la rivolta di Reggio, con la richiesta di rinvio a giudizio di 463 persone. L'indagine ha dei punti di contatto con quella del giudice Guido Salvini di Milano, che indaga sulla strage di Piazza Fontana. L'inchiesta dimostra come ci sia stata un'alleanza operativa fra Junio Valerio Borghese, Stefano Delle Chiaie, i servizi segreti, le logge coperte della massoneria, la mafia calabrese. Il 10 aprile 1995 il giudice Salvini ha depositato la sua ordinanza sulla strage di Piazza Fontana ed altre stragi degli anni 70, che contiene sei rinvii a giudizio contro Giancarlo Rognoni del gruppo La Fenice, Nico Azzi, autore dell'attentato al treno Roma-Milano, Paolo Signorelli, Sergio Calore, entrambi imputati di detenzione con la finalità di sovvertire lo Stato di bombe a mano SRCM, Carlo Di Giglio, Ettore Malcangi. Non saranno invece processati, perché i reati sono andati in prescrizione, Stefano Delle Chiaie, Gimberto Cavallini, il generale del SID Giannadelio Maletti, Giancarlo Dovidio, Angelo Izzo e l'agente del SID Guido Giannettini. Delle Chiaie viene anche iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano insieme agli ordinovisti Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni per la strage di Piazza Fontana, anche se non era più processabile per strage in virtù di una precedente assoluzione definitiva. Il 5 febbraio 1997 fu organizzata dal Polo delle Libertà un convegno dal titolo Strategia della tensione e stragi sul filo rosso della disinformazione, al quale vengono invitati tra gli altri Stefano Delle Chiaie, Paolo Signorelli, Amos Piazzi, Maurizio Gasparri e Marco Daradash. Il 10 febbraio 1998 David Carret, ufficiale della Marina statunitense e agente della CIA in Italia, è indagato per spionaggio politico e militare, concorso nella strage di Piazza Fontana e in altri attentati avvenuti a cavallo fra gli anni 60 e 70. Il giudice Salvini, inoltre, ha rinviato a giudizio Sergio Minetto, capozona CIA in Veneto, e il neofascista agente dell'agenzia militare di spionaggio USA Carlo Di Giglio. Avviso di comparizione anche per Yves Gerinsrach e Stefano Delle Chiaie. Dall'inchiesta emerge che le organizzazioni neofasciste presenti negli anni 60 e 70, Avanguardia Nazionale, La Fenice e Ordine Nuovo, erano teleguidate da membri delle istituzioni statali con la supervisione della CIA. È stato reso noto inoltre che nel 1995 il fiduciario della CIA a Milano, Carlo Rocchi, è stato sorpreso mentre era impegnato a raccogliere notizie sull'inchiesta del giudice Salvini. Il 22 maggio 1998 si verificò una fuga di notizie su un probabile coinvolgimento di Licio Gelli ed estremisti di destra, tra i quali Stefano Delle Chiaie, in un progetto eversivo della cupola mafiosa in cui si inserirebbero le stragi del 92 e del 93, che avrebbero avuto lo scopo di creare nel meridione movimenti separatisti. Nel maggio 1999 Luigi Sparacio, un pentito di mafia originario di Messina, dichiara ai magistrati che durante un incontro a Roma, prima delle stragi di mafia del 1993 con Delle Chiaie, questi fornì a Cosa Nostra delle strategie politiche da seguire e gli consegnò una mappa dell'Italia con dei segni fatti con la X che rappresentavano degli attentati da fare. Il 9 giugno 2001 venne chiesta dalla Procura di Palermo l'archiviazione dell'inchiesta a sistemi criminali, cioè sull'esistenza di un progetto politico separatista riconducibile alla loggia massonica P2 e a elementi dell'eversione nera e dei servizi segreti deviati, in collegamento con Cosa Nostra, che sarebbe stato avviato anche attraverso le stragi del 92 e del 93, tra gli indagati Stefano Delle Chiaie, Licio Gelli, Totò Riina e Giuseppe Mandalari. Stefano Delle Chiaie è morto a Roma il 9 settembre 2019 ed è stato seppellito al cimitero del Verano. Al suo funerale parteciparono diversi esponenti della destra, come Roberto Fiore, il capo di Forza Nuova, Maurizio Boccacci, Adriano Tilger, Mario Borghezio, parlamentare europeo della Lega, Domenico Gramazio, ex deputato e senatore di Alleanza Nazionale e del Popolo della Libertà. Il 6 aprile 2022 Paolo Bellini, sicario al servizio delle mafie e della destra eversiva, militante di Avanguardia Nazionale che ha avuto anche un ruolo nella trattativa Stato-mafia, divenuto poi collaboratore di giustizia, è stato condannato in primo grado all'ergastolo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Nella puntata della trasmissione Report del 23 maggio 2022, Maria Romeo, compagna di Alberto Lo Cicero, informatore della polizia e poi pentito e autista e guardaspalle del boss di Cosa Nostra, Mariano Tullio Troia, soprannominato U Mussolini per le sue simpatie politiche, uno dei boss mafiosi di Palermo, racconta che delle chiaie incontrò Troia. E secondo quanto Lo Cicero dice alla compagna, sarebbe stato l'aggancio fra la mafia e lo Stato, spedito in Sicilia con il mandato di quelli di Roma. Maria Romeo dice che Lo Cicero ha fatto un sopralluogo con delle chiaie dove c'era un tunnel a Capaci, ovvero dove poi sarebbe stato messo il tritolo per colpire la macchina di Falcone. Per chi volesse approfondire, innumerevoli sono i libri in cui è possibile trovare notizie su Stefano Delle Chiaie. Ne citerò solo alcuni. Di Guido Salvini, La maledizione di Piazza Fontana. Di Gianni Cipriani, Lo Stato invisibile. Di Giuseppe De Lutis, Storia dei servizi segreti in Italia. Di Giorgio Boatti, Piazza Fontana. Di Antonella Beccaria, Piazza Fontana. Di Sergio Flamigni, Trame Atlantiche. Si conclude qui questa seconda e ultima parte su Stefano Delle Chiaie, di gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte.